visto, ho visto, c'è la musichetta che fa paura, questa è. bianca di petrolecina. dritta la testa di cena, sono zingari. Una L, una cosettina del genere che non serve a niente, capito, e poi se va a rinforzare il pulsantino di spinta del PTT, dove tu schiacci col dito, e andava a toccare quell'angolino, andava a toccare al circuito stampato, quindi non spingeva del tutto, capito? Perché l'ho lubrificato, come hai detto tu, con l'olio Singer, tutto, adesso lo rinnovo, tutto ripulito dentro, però lo faceva lo stesso. Poi mi sono messo gli occhiali, quelli grossi, di mia moglie per leggere, e vedevo che il PTT non va sino in fondo, perché toccava alla piastra, capito? Al circuito stampato. L'ho tagliato con la taglierina, fatto, tutto, bene va? Sì, adesso va bene. Intanto sempre ritorno di pittura, però io ti metto di fabbrica sicuramente. Oh già, infatti ho aperto l'altro, è uguale all'altro che c'ho, capito? C'è lo stesso questa lamella. Il problema sai qual è? Che nel fare i fori per non far muovere il circuito stampato dell'amplificazione, sicuramente i fori li hanno fatti troppo in avanti e il PTT quindi va a toccare, capito? È un diciamo un coso di fabbrica, dai. Vabbè, Flippe, cazzo, non te ne avvisare tu di ringoggio, vabbè che non l'hai provato. Ma se l'hai provato, se quanta mi ha voluto, te la funzione di me? No, ma non è un difetto di coso che hai fatto tu, no, assolutamente. Tu non puoi averlo provato perché non c'è la radio per provarlo, capito? Non è un problema di connessione, è un problema di PTT dentro la radio, siccome a volte usciva, a volte non usciva, capito? Non so se ce l'hai presente, non so come spiegarlo, cazzo. Comunque il puntale che spinge in dentro il PTT, invece quello esterno, quello di plastica grigio, c'era un difettuccio, sicuramente un difetto di fabbrica, questa cosa di plastica che toccava e non faceva spingere bene il PTT, allora l'ho tagliato con la taglierina e adesso funziona bene. Sarebbe consumato comunque? No, ma giusto, non si consumano già, è un bel duro, è proprio fuso, capito? Però andava a toccare, ti ripeto, dove c'è il circuito stampato e quindi devi schiacciare bene il microfono, invece adesso lo sto schiacciando normalmente, prima volevo tenere forte col dito, capito? E beh, Luca, mi sto conservando i ferri che ho finito con l'antenna, le faccio un casino, tenaglie, taglierini, nastri, mica nastri. Ma la 510? No, l'altra, quella della 27. La 510, vedi, l'ho analizzata appunto oggi ed è a posto, sia in V che in U. E allora, come ti ha detto Tino, cioè è troppo grande per quella frequenza, capito? Va bene, comunque io ho risolto. No, lui, tu hai fatto, stavo dicendo a Gianni, ho detto, cazzo, mi ha messo il connettore nuovo Luca, e il microfono nuovo, sicuramente è un difetto di fabbrica, però allora, che lo gioco, abbiamo fatto un'altra esperienza. Vai, Gloria, che metto a posto i ferri. Buonasera, forse mi senti meglio, che ci avevo il microfono praticamente staccato. E anche tu, ci siamo sentiti anche ieri, ma anche tu arrivi bene dalle mie parti. Il microfono nuovo non esce, la connessione è perfetta, tutto nuovo, la spiraletta nuova nuova, e invece c'era praticamente il PTT esterno che non andava a spingere tutto in fondo, e quindi a volte usciva la radio, a volte non usciva. Adesso poi attaccando il modulometro ho visto che sta andando, a voglia sta andando, vediamo. Ora, ora, ehi, al 100% la modulazione. Sì, beh, io poi mi sono messo a controllare bene con gli occhiali, ho visto che, ti ripeto, non spingeva sino in fondo, non spingendo sino in fondo il pulsantino che va a dare il contatto per il modulatore, a volte usciva, a volte non usciva. Allora gli ho eliminato questa lettina che andava a toccare sopra il circuito stampato, e adesso spinge bene, lo sto appena appena sfiorando, il microfono va bene. È mancato di qualcosa, la radio va bene. Ma ci sono accorto subito, ancora proprio interno, perché l'ho aperto anche stamattina e non ho visto niente. Ho detto, ma il microfono quando ve lo qua a capo? E invece praticamente era proprio un difetto di fabbrica, deve essere la letta troppo prefugia, capito? Andava a toccare, troppo lunga l'hanno fatta, andava a toccare il circuito stampato quando premo. Allora l'ho tagliata con la taglierina, ma è una puntina meno dell'unghia, capito? Una cosa proprio minuscola, minuscola, infatti ho dovuto tutto aprire. Tutto aprire già, e l'ho rimesso a posto subito, non mi è scappato il coso di plastica. Microfono per i Noiti, sì, ho comprato un altro microfono, capito? Quindi ho l'MB più 5 sugli Noiti, l'MB più 5 sul DAC e l'MB più 5 sull'Elbex, capito? LMB più 5, non lo conosci, ce l'hai tu? Solo che me l'hanno dato col connettore tutto staccato, capito? Quello a Lucca l'ha tutto messo, il connettore nuovo, tutto messo a posto, e andava bene, l'ho provato ieri e usciva benissimo. Poi ho iniziato a fare questo difetto, ho detto, ma che strano, l'ho aperto, gli ho messo la batteria nuova, controllato, non volevo niente. Oggi mi sono un po' puntato e già mi ha detto, guarda che quel pomellino, quindi ho controllato bene se entrava e usciva bene, capito, il contatto. Ed entra e esce bene. Poi ho messo il tampo e lo faceva di nuovo. Aia, ha detto, là c'è qualcosa che sta toccando sul tampo. Effettivamente c'era questa lamellina di plastica che non mi faceva spingere del tutto il contatto per il PTT, capito? Sentiamo, grazie del controllo, grazie di tutto. vedo che comunque non lo sta facendo più, quindi ho trovato il sistema, dai. Ok. Anche io già mi preparo per vado a portare il cane, dai, quindi la modulazione va bene, la lasciamo stare così. Allora, vediamo l'ultima prova tecnica di trasmissione, eccola qua, perfetto, dai. Va bene, lasciamo tutto così e non se ne va veda più. Cambio passo e chiudo. No, oggi no, abbiamo fatto il sabato, vabbè, quindi già non lo sta più facendo, difetto, la radio perfetta, va bene. Ora, guarda, ho dato, anziché a 4 l'ho messo a 4 e mezzo, guarda che spettacolo sto microfono qua. Non costa di nulla, questi vintage viaggiano alla grande. Cioè già va bene così, ottimo, non è barattolosa, i toni sono giusti, l'ho corretto con i toni e basta. Tanto queste sono radio che uso così ogni tanto per farle andare, se no lo sai che ho le altre. Però mi va quando la uso di usarla bene, capito? Tutto qua. Va bene che va bene, ok, chi è che voleva entrare? No, ho capito, chi sei? Già, tu hai notato qualcosa, non so, chi era? Si è uscito tutto brisattato, non ho capito chi sei. Vabbè, comunque, dai, ti saluto che sto chiudendo, devo andare a portare il cane, ciao. Ciao, Fabio, scusa che sono al telefono, sto avviando la parte. Ehi, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ciao. Chi è che voleva entrare sul canale 10? Vediamo un po', 1, 2, 3, prova, ecco qua, vabbè, facciamo stare così. Ma che sei, bombolo, sì. Ah? Ehi, vabbè, se non parli bene non ti capisco, vai, sentiamo, ciao. Vabbè, tutti a mangiare si è andati. E tu non ci vai, no? Già ci vado io dopo, però ancora è presto. Assomi, come mi senti? Sto usando tanto soffrato, ma ho il microfono da palma piccolino. Dovrebbe essere sempre cuffa, ma un po' di meno. Sì, hai detto bene. Cuffa, ma un po' meno, diciamo, rispetto alle altre volte. Già va bene. Quindi si capisce comunque, dai, non c'è problemi di intelligibilità. Io sto guardando il TG, ma mi pare che qua la situazione, qualcuno direbbe, la situazione si fa sempre più losca. Che casino, ragazzi. Vieni, siamo. Giaffra, pieni, sta camminando, stanno aumentando i morti, sta aumentando tutto ed è un casino, non lo so, vabbè, io spero che non ci siano problemi, ma mi sa che siamo nuovamente in chiusura, lockdown proprio, tutti a casa di nuovo, non se ne parla più. È una cosa triste, è una cosa veramente triste. Speriamo bene, perché se ritorna alla sanità non è certo all'altezza, secondo me, per quello che ho visto e che vedo. No, non penso ci siano molte cose di stare tranquilli qua. Infatti, il problema è quello che non c'è tranquillità perché la cosa sta camminando, non si vuole fermare. Hai visto da oggi obbligatoria la mascherina anche da solo, senza proprio perché sicuramente ci sono state già fra troppi, soprattutto questi ragazzini, capito, che pensavano chissà che cosa, ma no, non funziona così, doveva essere una cosa che doveva passare più, meno inosservata, capito? Ci sono stati pochi controlli quando ci hanno dato la libertà e la gente ne ha approfittato. La Sardegna sta aumentando, la campagna non ne parliamo, il Lazio, hai visto cosa c'è, la guerra praticamente, sono la gente, cioè come si fa dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera a stare dentro la macchina nella speranza di un tampone, un casino veramente, anche a pagamento, triste si sta mettendo la cosa. Lo so, è triste, però come facciamo a uscirne di nuovo? È che siamo preparati, però come facciamo a uscirne? Beh, lo sappiamo tutti come va a finire. Se ci va male ci saranno di nuovo gli autocarri che portano via la gente, perché lui, questo signore qua, non si è, questo virus, no, secondo me non si è né indebolito, è sempre virulento, è una cosa in maniera micidiale veramente, e la gente purtroppo non ha ben chiare le idee, capito? Solo gli anziani che l'hanno provato sulla loro pelle, perché questo grande, questo bastardo di virus, anche se guarisci, hanno controllato e ti lasciano gli organismi, addirittura ti fa cicatrice sul cuore, sul fegato e su tutti gli organi. È una cosa da veramente vista con calma e con un pochino di intelligenza, fa paura. E questo sia nei giovani sia nei vecchi, cioè chi piglia piglia, non è che si fa complimenti. Gianfra, non ce n'è, non c'è, come hai detto tu giustamente, né giovane né vecchio. È un problema di virus e attacca a tutti, capito? Però la cazzata più grande hanno fatto questi giovani, questi ragazzi che praticamente pensavano che attaccasse solo alle persone anziane, capito? Che loro erano immuni. Non è così. Non è così, perché quel ragazzo di Isili che è morto aveva 35 anni e in 24 ore, capito? Non riusciva più a respirare, riusciva più a niente, l'hanno portato in codice rosso ed è morto, capito? Fulminante, cioè non venuto da, è un virus di merda, appunto, e basta. Io sono convinto che tra non molto siamo tutti nuovamente in lockdown, sicuramente alla grande. Chi è questo col PD? Mi è sembrato Becco dalle Canarie, bro. Ah, c'ho 10 watt. Avanti Brecco nelle Canarie, a chi Italia, Sardegna, vai, e a chi voglio dire in nome di vostra mano, capito Gianfra? C'è molta paura, soprattutto per chi in questo momento, in questo contesto, sta cercando di rialzarsi. Qualcuno con tanti sacrifici ce l'ha fatta. E adesso cosa facciamo? Torniamo punti a capo. C'è gente che non si è manco rialzata ancora. Sì. Ma speriamo che vada tutto bene fino a qua, veramente. È una guerra, una guerra. Comunque ti hanno risposto, ed era un italiano, ti ha risposto. Mi sembrava uno di continente, o comunque con accento continentale. No, io ho sentito Italia dalla Spagna, boh. Avanti. Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato, bassino, avanti. Sì, canale 10, ampiezza modulata, nord Sardegna, Italia. Stazione Sparviero, operatore Claudio, in compagnia di Gianfranco, avanti. Ok Giovanni, grazie a te per essere entrato a salutare, cordialità, segnale per te, 5-7, con QSB, modulazione abbastanza buona. Avanti Gianfranco. Ciao Giovanni, buona serata. Sì, ciao Giovanni, non so se mi ricevi, buona serata. Qua è Sassari comunque, una nuova sta Sardegna. Alle prossime Giovanni, ciao ciao. Ciao Giovanni, alle prossime. Io sto andando, con quanti faccio? Perché sono all'angolo della stanza con questi baracchini, sono tutti lì. Di solito muovo dal centro, vediamo che allontano. Io ci fate 8-10 modulati, va bene, radio perfetta. Sì, già va bene. Cioè, io dico sempre una cosa, già me lo potevo immaginare. Quando si avvicinava quasi, non dico traguardo, ma insomma, quando ci eravamo vicini, che scoppiasse una cosa che sotto certi aspetti potrebbe paragonare tranquillamente a una guerra, con la differenza che in guerra almeno vedi chi ti spara, ecco, qua neanche lo vedi, quindi è ancora più subito la cosa. Mannaggia la paletta. Quello è il problema, Giafra, capito? Che non ti accorgi di niente. Hai questo sintomo di malessere e poi alla fine sembra un tumore che cammina nell'aria, capito? Un virus è così bastardo, guarda che non si capisce, non è in Sardegna, è in tutta Italia, è in tutto il mondo, purtroppo, sta facendo un casino nero, sta buttando giù vittime a tutto andare, capito? Il problema è quello, vabbè. Diciamo vabbè, cosa vuoi, non c'è niente da aggiungere, quindi diciamo solo vabbè. Spero solo che lui dall'alto ci protegga e che dica basta, altro non ti posso dire, perché veramente ho la grande paura che torniamo ancora peggio di prima, peggio. Speriamo di no. A pensare che c'è gente che ancora non ci crede. Cosa bisogna fare un po' per mettere il sale in zucca alla gente? Probabilmente bisogna prima tagliarne la testa, metterci dentro un po' di sale e poi richiudere. L'altra gente non ci crede perché praticamente sembra, effettivamente visto così, sembra un business, capito? Sembra un business, però non è così. Cioè purtroppo dobbiamo conviverci a quanto pare, Gianfra, capito? Almeno un anno, senza l'estate del 21, forse, ma in mezzo c'è l'inverno, ci sono tanti mesi. Affidiamoci all'alto, perché mi pare che qua giù le cose si stiano mettendo maluccio. Infatti ti ho detto, affidiamoci all'alto, decidi, poi si vedrà quello che succede, altro non ti posso dire, non lo so, vabbè. Già mangiato, Sì, io ho già mangiato, una cosa così veloce, perché sono dalla sette attaccato a questo PC e appiccio al telefono, mi sento tipo, c'è presente entrare dentro una matrice. Quindi, così, attuntunato qui. Sì, avanti. Ehi, non so stesco, no, c'era Luca che stava salutando in PMR, quindi non ho schiacciato, se no ti mandavo a lui che stava parlando. Ehi, no, mi sono allontanato perché sono andato a portare il cane e poi sto facendo altro, capito? Va bene, no, io non ho ancora accenato, Giaffra, quindi sto aspettando un altro passaggio, poi vado a cenare anche io. E cosa vuoi che ti dica? La cosa grave è che, ti ripeto, la gente sta cercando di rialzarsi, se ce la fa, però se continua così la situazione, ho la varia pressione che non si solleva più nessuno. Sì, il fatto che la cosa che mi fa un po' sorridere, io dalle previsioni prevedevo che saremmo stati colpiti da bel tempo, che oramai è molto molto pericoloso, addirittura ci sono delle isolette nel Lombardo Atlantico e nel Pacifico che stanno sparendo, praticamente sono sott'acqua e quindi la gente la stanno evacuando, anche se con questa cosa non fa notizia, no? Però sono migliaia di persone che stanno perdendo tutto. E la stessa cosa sta succedendo in Africa, dove stanno perdendo l'acqua, i laghi stanno prosciugando. Io pensavo che la cosa, diciamo, si fosse di lì, ma chi mai pensava a questo, che ci fosse anche il virus? Quelle cose ci sono già, adesso c'è pure anche il virus, è che mi sembrano le dieci maledizioni di Israele, te lo ricordi, di quando c'era Mosè. Già. Non sono già fra. La cosa che mi preoccupa è mia figlia che ha un'attività, capito? E quindi spero che vada tutto bene, che non ci siano grandi restrizioni e che riescano a lavorare, però se andiamo in lockdown siamo fregati. Casino che ti ribonghiani, se deve andare, ma non penso lockdown perché non lo possono fare. Buonasera a tutti. Buonasera, non c'è il nome, ti prendi classe. Non possiamo fare, certo, non possiamo fare. Se è il momento che decidono di rimetterci in quarantena, ancora non possiamo fare. Ma c'è il rava che c'ha cosa, come intende già fa fiago. Magari va a casa Marasucci e dite che Covid, magari è un'altra cosa. Sta già cominciando a puntare un po' troppo, perché molte cose non ci sono, hanno scoperto che non sono vere molte cose. Non lo so, certo è che sotto c'è sempre un magna magna, come c'è stato per le mascherine, capito, ci sarà anche per altre cose, però che non sia vero, io non funziona così. Non funziona così, il virus c'è, ci dobbiamo convivere, dobbiamo stare soprattutto molto attenti, perché altrimenti andiamo tutti a fondo, e se andiamo a fondo per la seconda volta non si rialza più nessuno, e su questo non ci piove. Vai Gianfra. Sì, anzi, siccome tu lo sai che anche per la ragione di lavoro sono c'è l'occasione di discutere anche con medici e con altre persone. Io ho la netta sensazione che la cosa sia un pochino al di sopra, loro stanno cercando di tranquillizzare anzi, ma la verità è che insomma, se guardiamo gli altri paesi, gli Stati Uniti, ma anche paesi europei tipo la Spagna, anche la Francia, dobbiamo veramente stare allerta, altro che queste cose non è, queste cose non è ci portano a tutti quanti in via di San Paolo per quello che riguarda la Sassa, se si può evitare di andarci prima di imprevisto, tanto di guadagnato. Io dico solo che ho avuto occasione di vedere dove sono, in che condizioni sono, mi ha fatto il segno della croce, guarda, è una cosa che se non la si vede non la si crede, me lo stanno dicendo tutti i medici, guardate che se finite di lì è un grosso guaio, è un guaio grosso, grosso, grosso. Tu guardi la gente in faccia ma non c'ha più sguardo, quindi sono cose brutte, altro che non c'è, c'è ed è in mezzo a noi. Cosa vuoi ti dica? Io ti ripeto, ribadisco, spero che si riesca a tirarne piedi, diversamente è un bel casino. Dai, io vi saluto perché è pronta la cena, se ci siete dopo, altrimenti a domani. Ciao Gianfranco, ciao Antonio, grazie delle due chiacchiere e saluto anche chi è in ascolto sul canale 10. Antonio, ti arrivo bene, sì? No, non ho capito, Cla. Ho detto se ti arrivo bene che sto chiudendo. A buia, sei quasi 9.30, Radio 5, sei quasi a fondo scala in occhi. Vabbè, il segnale non mi interessa. La radio che sto usando una BB più 5 su un'altra. Su una radio vintage, dai, sulle note basse. Va bene, vi saluto di nuovo, dai. Buona cena a tutti e alle prossimine. Chiudo, ciao ciao. Ciao ciao, ciao, grazie, siamo le croci. Avanti già Franco. Franco? Sì, Antonio, mi senti? Che ti sento, ha chiuso Claudio. Sì, infatti ti ho rilanciato il microfono. A capa. Ma più forte ti arrivo a casa tua adesso, perché ho fatto. L'ho messa proprio a punto questa antenna. Adesso dovrebbe avere tutta la sua funzionalità. Perché mi hai fendici di gabbo, capito? Adesso dovrebbe andare bene, anche stazionaria e sono a posto. Sì, io direi di non toccare niente. Il segnale qua mi sembra di aver visto intorno al 9, però lo sai, sono poco affidabili questi a LED degli apparecchi. Quindi, però ti sento bene, il segnale mi sembra abbastanza buono, quindi non toccare niente. Capa, ho fatto una modifica, pure tu mi arrivi 9.20, 9.25. Capa, sei fortissimo, sei qua a casa. Adesso sento tutti bene, ho risolto tanti problemi, cioè da quando l'ho messo a punto ho risolto moltissimo. Quindi c'era qualcosa che non andava, visto? Quindi adesso tienilo conto, non ci mettere più le mani se è possibile, perché adesso sta andando tutto come deve andare. E non mi ricordo la tua zona, in che zona sei? Zona Corso Vicco. Ah, ho capito, quindi sei abbastanza vicino anche a Natalino, che non ho sentito più. E a Natalino li chiedo tutto, logicamente. Sono vicino al Brofetta, quel ragazzo che è Gianni, come si chiama. A lui proprio l'inchiodo tutto, arriva a fondo scala proprio. Pomerino, pomerino! Via, dimmi! Io! Ieri, Cassino. Ciao Gianfranco, ma Claudio non c'è? Se n'è appena andato Claudio Sparviero. Guarda, parlate in due, non ho capito niente. È andato a cena. Ah, ok, dai. Io ho già cenato, no? Adesso, che ne so, volevamo un ovvio, tanto vado via l'acqua, là. Se ci siete dopo, a dopo, se no pazienza. Ok, buona serata, buona cena. Se non l'è fatta. L'altro chi era? Riccardino? Ma non è Riccardino, non c'è Riccardino. Ah, mi era sembrata una voce. La sua voce, vabbè, niente. Quindi sei vicino a. Non mi ricordo più il nome. Comunque ho capito che lui è verso la stazione. Capa, non è che io. Non è assai non verso la stazione, qualche palazzo di più, Siamo vicini, mi. E infatti lui mi arriva proprio a fondo, è il più forte che mi arriva a casa, è lui. Non ho sentito Natalino ancora, ma sicuramente lui arriva fortissimo qua, come io gli arrivo forte. Sì, sì, sì, vabbè, siete vicini. Io ce l'ho da quella parte, ce l'ho in mia ottica, pure l'uomo, vedo anche l'altro lì che c'è, altra calca via, dallo alto, insomma, c'è Santa Maria, è tutto lì in mia ottica. Solo che sono distante, tutto lì, sono 8 km da stazione. Per essere 8 km, cavolo, mi arrivi fortissimo. Nonostante operi sempre in quel resti, la potenza è intorno ai 4 watt. Quindi, anche perché questo no, è un omologato, quindi di più non può dare. Sto dicendo che sei già qua a casa mia 9.25. Per esserci 9-8 km, immaginiamoci quanto è, ci attacco io qua, vanno di più quelle lancette, non è, anche se anche tu magari mi vedi, nello specchio mi vedi, però per quello che arrivi anche forte qua, anche se ci sono 8 km però va alla grande, non so se è zona alta la tua. Diciamo che esattamente 150 metri sul livello del mare, quindi rispetto a Sassari è un pochino più basso, Sassari credo sia 200 e passa. Però è in linea ottica, io vedo anche le macchine che vanno lì nella collina di Usilo, soprattutto la notte, vedo i fari, vedo le luci di Usilo. In linea ottica poi c'è la foto di quelle montagne lì, dalla zona di Ploaghe, dai, dovrebbero essere quelle montagne che ci sono. Insomma, come zona già abbastanza buona, l'unica che è un po' così è questo Porto Forest, perché mi copre la collina di Monteoro, che tu lì. Col negativo c'è in quelle zone, o vai lo stesso? No, no, già ci arrivo a Porto Forest, già ci arrivo, però è molto basso, capito? Perché c'è forte attenuazione. Poi magari a seconda anche della zona di Porto Torres, se riesce a essere di fianco destro, fianco sinistro di Monteoro, allora riescono ad arrivare bene. Però comunque risulta coperto, ecco. Magari se uno fosse all'Asinara, che è più distante, sicuramente non si crede molto meglio. Però non c'è nessuno lì. Non c'è nessuno, no. Chi c'è la signora? Di CB? Nessuno. Anche lì è una zona bella, perché sulle colline si dovrebbe arrivare, non dico a Olbia, ma almeno certamente arrivi alla Maddalena, come niente. Tutto la ghiaccio, lì tutte quelle zone. Insomma, anzi, forse vai anche oltre, se tu ti scrivono le altre, probabilmente senti anche il continente. Non lo so, qua non ne ho mai sentito, qua a Sassari. Va bene, no, magari, non lo so. E vabbè, per sentire quelli della Corsica, forse bisogna andare verso Santa Teresa, quelle zone. No. Se sei in zona di mare aperta, tipo l'Asinara, che è molto spostata, quindi è rivolta proprio verso di loro, li senti e come. Guarda, io ti posso dire che sulle nostre frequenze, la Corsica la sento già dalla macchina, quindi figurati. Ma su CB no, però. No, la CB, diciamo, sia per motivi di rendimento delle antenne, ci vorrebbero antenne di performanza, sia per la potenza bassa, insomma è così, però guarda, poco fa anche Flavio ci ha risposto, proprio prima che entrassi tu c'era uno, adesso non mi ricordo la zona, però era dal continente. Non ho capito bene dove l'ha chiesto un controllo e arrivava benissimo. Quindi insomma già si arriva. Se arriva sì. Ma non c'è problema per. Cioè, arriverà anche qua, non è un problema. Quando c'è la cosa aperta, io ci sono arrivato anche con la Storm. Ho parlato col continente, no? Non è un problema per quello. Non è l'antenna che fa molta la differenza su quando c'è la propagazione aperta. Per dire vero è proprio viceversa, è l'antenna che fa la differenza, in ogni caso sempre in tutte le circostanze, perché l'antenna ha le sue polarizzazioni, ha le sue direzionalità, quindi può essere più direttiva da una parte e un po' meno dall'altra, può andare verso l'alto, sono quelle che vanno verso il basso come radiazione, quindi l'antenna è tutto, capito? Le migliori sono proprio quelle che sono direzionali e quindi che cercano di avere il cerchio di diciamo, più regolare possibile, in modo da evitare i gruppi di radiazione verso i punti più distanti. E così. Ma guarda che io un po' di tempo fa con la mia storm ho parlato con uno ho parlato con gente della Sicilia, Costa Ionica, addirittura una volta siamo arrivati a Fondo Scala pure, poi da altre parti, da Taranto io sono arrivato 9:30, sono arrivato, no, ma perché era molto favorevole, quindi, ma sono sicuro che da qua va ancora meglio. E dipende anche dalla stazione che ti ascolta, ci sono tanti fattori che influiscono. Io invece sono proprio per, non ovviamente, anche qua quando c'erano, una volta l'estate c'erano sempre i radiotaxi russi, qua arrivavano sempre a Fondo Scala, una rottura veramente micidiale. E lo stesso tutte le altre gambe, appena accendo, c'è il russo. Guarda, ci sono anche quando spengo la radio e ci sono sempre i russi. E sono micidiali quelli. Che usano queste frequenze i russi? Sì, fino a 1-2 anni fa qua non si poteva fare perché c'erano i radiotaxi. Li sentivi in FM, sparati, una cosa micidiale. E c'erano anche dei filmati su YouTube. E stavano sempre a parlare, si litigavano anche a volte. E ci sentivano anche a noi. E sentiva la signorina dalla centrale operativa che li mandava a destra, a sinistra. Invadevano anche la banda superiore dei 10 metri. Quindi erano dappertutto, dai 25 ai 30. Poi evidentemente anche i russi sono stufati lì le autorità e li hanno trasferiti tutti o in VHF o in UHF per non rompere, diciamo, ad altri servizi, perché questi andavano in alto, in basso, senza guardare chi c'era, chi non c'era. E infatti non sono più sentiti qua sulla nostra frequenza. E sicuramente ci sono stufati un po', ha detto, ma cavolo. No, più che altro, se non rispetti le leggi, ti mandano al freddo sul serio in Siberia. Non mi fanno tanti complimenti, c'hanno la mano pesante lì, le autorità. Già lo so già, ma non penso che, sicuramente anche perché sono stufati e li hanno messi in regola magari, o hanno il coso, come si dice, qualche radiotelefono, qualcosa del genere, cioè hanno cambiato un po', dai. Sì, sicuramente, ma è stato un bene, perché almeno da lì, almeno da qua se ne sono andati, perché erano veramente una cosa micidiale. Adesso si sentono i francesi, si sentono di nuovo gli spagnoli, ma prima era una cosa che non si crede, perché sembra che la Sardegna sia anche ben esposta verso questi paesi, su tante bande, e arrivano abbastanza bene. E magari buon pavano.